tizio che si stava lamentando, è una rottura. Purtroppo, Tony, quando c'è l'ernia del disco, l'unica soluzione è l'intervento chirurgico, perché gli antidolorifici fanno fino a un certo punto, ma quando c'hai un nervo schiacciato è una cosa terrificante. E possibilmente l'operazione però va fatta, cioè non a Sassari, cioè Milano, quelle zone là. Ma dove sono stato io cambiavano i dischi dalle vertebre mie alle persone, due, tre alla volta, roba mai vista qua, roba mai vista. Eppure lì sono proprio specializzati in neurochirurgia e tutto quello che concerne comunque sia il cervello che tutta la colonna vertebrale. Lì sono maghi, maghi, sembra di essere qui in quei telefilm Grey's Anatomy, è un altro mondo, Tony. Con laser? Ah, addirittura anestesia locale, ma hai sentito qualcosa? Sì, io mi sono confermato, lo fanno, c'è a Cagliari un professore che si chiama Stefano Marcia, una cosa del genere, ed è bravissimo, è un primario. Eia, a Sassari magari cardiologia dovrebbe essere buona, a quanto dicono le persone cardiologia è abbastanza accurato come reparto, però se devi fare roba delicata alla colonna o peggio, come è successo a me, devi andare fuori e qua proprio non lo fanno, non hanno l'esperienza, non hanno i macchinari soprattutto, non si pigliano responsabilità qua, quindi è meglio andare a colpo sicuro, poi se deve succedere, succede. Come la storia del coronavirus, se te lo devi beccare te lo becchi, no? Non c'è mascherina che tenga, non c'è il gel che mi sto facendo la doccia col gel antibatterico. No, comunque Caglia già fa, è molto bravissimo, detto, l'ortopedico che lo conosce, quindi lui è proprio specializzato per fare questa cosa al laser, ho visto già un filmato e mi va bene, se sia locale e sono a posto. Io ho sentito un break, chi vuole entrare avanti? Vediamo se è chiodo. Avanti, chi ha parlato? Chi è? Avanti. Claudio, guarda che c'è chiodo, Claudio, se no gli faccio un sms, dai, un messaggio, magari si è allontanato. Ciao Gianni, come ti arrivo a paese? Sono qui, mi ha avvisato Marco che è rientrato, ciao Cla. Ho bisogno però di parlare con Babbo, forse tu lo sai. Ho rotto pulendo il cambio canali dell'Inuit, mi è caduto per terra e si è rotto il vetrino. Volevo sapere se ne aveva un altro lui, capito? Quello che va dentro, che gira i canali, mica si leggono i canali. Sì, allora l'ho chiamato per quello che cadeva la linea, allora già la vede, la mia chiamata, dai, che ce l'ha memorizzato, e quindi può darsi che mi chiami lui quando esca, però se no, se viene a casa tu diglielo, no? L'hai chiamata Claudio, se ti dice no dire allora chiamalo che ti deve chiedere questa cosa, perché si è rotto, a incollare non fa perché praticamente si vede poi ti sfasa la lettura del canale, capito? Siccome so che lui già ne ha di queste cose, no, è fermo adesso sul canale 10, non vedo, se lo tocco non so su che canale va, capito? Mi è caduto in terra, stavo pulendo tutto, pomelli, pomellini, e invece mi è scappato di mano, è caduto di punta, tac, e si è spaccata in due il vetrino del cambio canale, capito? Quello rotondo, e mi è rimasto solo il pomello, porca miseria ladra, vabbè. cose che possono succedere, ma lui già mi può aiutare, sicuramente già ce l'ha qualcuno di quelli grandi, così, capito? Non c'è problema, vai. Ok, cla, ricordati allora, se non mi chiama lui, diglielo tu di chiamarmi che le devo dire questa cosa, ok? Tranquillo già, sto guardando la TV a quell'ora io, non ti preoccupare, dille di chiamarmi, così se ce l'ha mi metto d'accordo e salgo a prenderlo, capito? Pure aiutarmi a procurarne uno, non lo so. So che lui ne ha un'altra in disarmo di quella, quindi intanto è uguale il pomellone, non cambia niente, sono tutte e tre uguali, Inuit, Polmar e poi chi cazzo c'è, boh, un altro, non mi ricordo, vabbè, comunque dai, già parlo con lui, Claudio, grazie, riprendi tu e fai girare, dai, sono qua in quel rix un attimo. Il tuo padre mi sta chiamando, vai, aspetta. Buonasera Claudio, è la ruota, non ho fatto ascolto, ho sentito due passaggi e poi ho fatto break visto che ti ho sentito. Ok, stavo cercando di chiamarti, 5 minuti fa ti devo chiedere una cosa importante, ma deve essere che non o non lo senti o non hai la possibilità di rispondere. No, al cellulare so che ce l'ha Gianni, al fisso. No, infatti sta squillando e che nessuno risponde un attimo, vabbè. Ciao Cla, buonasera. E allora, che si dice? Oh, se vuoi due scusate te le do. Sì, sto facendo l'ultima trasmissione, poi domani smantello tutto. Tanto, non c'è più niente, la mattina non c'è nessuno, al pomeriggio fino alle 6 non c'è nessuno. E stavo sistemando un po', ho detto, ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Boh, domani ne scendo tutto, buonanotte. Capito? Non vale più la pena, capito? Così che ho detto, va, entro stasera, faccio gli ultimi passaggi e poi smantellamission tutto quanto. No, ma infatti è proprio per questo locale che non vale più la pena, capito? E non c'è più nessuno, non vuole più entrare nessuno la mattina, non ne parliamo, pomeriggio peggio ancora. Tutti dormono, io sono stanco, io mi devo riposare, io qui, io ho la testa di zeno, vieni giù. Boh, Raus, mi tengo portati lì a PMR, quello non si parla con quello non si parla con l'altro, ho detto ma chi me lo fa fare tenere tutto quanto, ma va là. Infatti di nuovi non c'è nessuno, neanche con la scusa che non c'è più la tassa, non c'è più, ma non ci... I giovani non interessa neanche, non sanno cosa è e non ne vogliono neanche sapere tra l'altro. E infatti noi li abbiamo conosciuti dagli anni 80, 90, e il telefono non c'era, eccetera, eccetera, così che non gli diamo neanche una colpa, perché intanto non ne metterebbero comunque i giovani di oggi. È entrato mio Riccardino, perché magari appunto il padre aveva la passione, eccetera, eccetera, ma un giovane che un padre non aveva il baracchino, non sa neanche cosa è, non interessa neanche, capito, metterselo. Avanti Riccardi. Buonasera Luca, ben entrato. Comunque, come stai dicendo tu, tipo tra i miei compagni non c'è nessuno, ho un compagno di scuola che è accanto alla classe mia che gli interessa, però sono proprio pochi. Claudia, ciao Luca, ciao Antonio. Mi ha chiamato Babbo, vai. Adesso quando rientra a casa ha detto che controlla in garage, se no qualcosa già faremo, vai. Un attimo. Ehi, Claudio, ero in cucina, stavo scaldando la roba, dai, ho messo nei piatti, quindi adesso ho pappatoia. E un saluto a Chiodoro Ginitto, a Tonino c'è ancora l'ascolto, che non stavo ascoltando, e anche a te Claudio e tutti gli ascoltoni, dai, sentiamo o dopo o quando capita, ok? Vai Claudio, ciao a tutti, ciao. Io a Marco, vabbè, no, io sono anche a portare a dire a Claudio, appunto, che mi ha chiamato Gianni, quindi... Ho già parlato con lui, ok, poi adesso vorrei se riesce a trovare, se non ho detto qualcosa già lo faremo, insomma già lo facciamo funzionare lo stesso. Va bene, ok, grazie dell'info Marco. Riprendi Luca. Sì, sono rientrato. Ah Claudio, una cosa, vabbè ti ho attenuato anche, però sei un po' al limite come modulazione, al limite dello strappamento, almeno qui, poi non so. Ciao a tutti, ciao, ciao anche Gianni. Ciao, ciao Marco, buon appetito e magari ci sentiamo dopo. Al limite dello strappamento, sì, è a 2, aspetta, mi metto l'occhiale là basso. Kappa, sì, stava cominciando già a strappare un pochino. Avanti, chiodo arrugginito con la buonasera. Luca si è allontanato, così meglio va già. Prova a fare un passaggio. Guarda, vedere, l'ho messo a 1, praticamente sotto la AM. Guarda, vedere. Sì, adesso la modulazione è alta, ma non strappa, dai. Forse ho toccato pulendola. Va bene, ok. Avanti Riccardo, riprendi tu e fai girare, dai, con Ricky, se per me ci sentiamo. Grazie Claudio per il mic, saluto a Marco e a Gianni, ben entrati. Ciao, ciao Riccardo. Ehi, dai Claudio, ci sentiamo dopo magari, se ne voglia. Ma non sapevo che ci fossero rotte notturne, se no sarei entrato anch'io. Non, questo non era venuto all'orecchio, adesso so che state entrando di notte e qualche volta entro anch'io. Cosa di notte? Fino alle 9:30. Sono entrato dopo cena io 10 minuti perché stavo finendo di fare un lavoro qua, ma non ci siamo trattenuti. 9:15, 9:20, poi abbiamo chiuso tutti. Kappa, non esistono più i notturni fino alle 7 di mattina come si diceva prima, le gare, ui, non è divertimento. Bei tempi, ne ho bruciato valvole, è pagato corrente a Renner, mamma mia come sto, va bene, va bene. Ok, dai, Claudio, riprendi tu, io continuo a fare questa cosettina qua, e poi riprendo, dai, riprendi qua. Sì, allora. Datemi un attimino che cambio apparecchio e dopodiché riprendo, dai, cambio apparecchio così li faccio girare un po' tutti quanti, che sono un po' pigri in questo periodo. Perché poi quando rilasci il freno mi vai a accendere, magari non ti funziona una cosa, non ti funziona l'altra, allora è meglio accendere ogni tanto. Sì, allora stavo provando anche a fare una squillare squilla, boh, vedremo, vedremo. Sì, adesso, come ha detto Gianni, anch'io provo a far girare qualche apparato che sto usando sempre il 78574. Ah, anch'io ho provato poco fa, infatti ti volevo dire se avevate cambiato numero, no, non funziona il telefono di casa. Kappa, aspetta un attimino, hola, scusa. Vabbè, poi da Gianni mi faccio dare il numero nuovo di casa, eh. Hola, hola. Sì, ce l'ho anche su WhatsApp, non c'è problema. Va bene, va bene. No, così l'ho tolto quel numero, perché intanto se non funziona è inutile stare a... capito? Va bene, Riccardo, riprendi, scusa, il microfono. Hola. Sì, adesso rilancio per Gianni. No, non ce l'ho Facebook, qua. È una cosa che non mi è mai interessata, diciamo, eh. Già va bene così, se ti devo contattare, volevo contattare, vi contatto per telefono, non c'è problema. Ok, avanti, doppio rumore, riprendi. Quindi la modulazione va bene così? E adesso va bene, dai. Bene. Cosa hai fasciato, Cla? Ti ho sentito che ti è successo, che ti è caduta roba. Sì, stavo pulendo l'inuit base, ho tolto tutti i pomelli per lavare, per farli. Ho tolto il pomellone... c'è la ghiera attaccata dei canali per pulirlo, capito? Mi è caduto per terra e si è spaccata il lettore praticamente, quello plastificato, dai, che legge i canali. Adesso chiamato Gianni, ha detto che guarda in garage, dovrebbe averne qualche un altro e così me lo va, capito? Attenzione Claudio. Kappa, se non lo fai fare, anche in plexiglass. Sì, vabbè, ma lui già ce li ha originati, se non ho detto in una maniera o nell'altra già troviamo la soluzione. Riccardo, riprendi che stava chiamando Claudio. Ehi, se poteva fare un attimo sul 13 per non disturbare, che provo così l'altro apparato della Midland. Sì, positivo, quel segreto. Kappa, va bene, va bene. Ehi, acclama, tu stai uscendo col cane? No, adesso no, sono le 7, no, ancora è presto, verso le 7:30, 8:20 lo sto portando. Ah, avevo capito che stavi uscendo col cane. Cavagala. Adesso ho attaccato il magnum, il signor magnum. Il magnum è gratis, sono i migliori già, senza offesa, gli altri vanno bene, ma questi sono quelli che mi piacciono di più, di radio. Questa poi il microfono è normale, non è amplificato né nulla, è normale, è proprio tirato alla casa, bene. Facciamo una bella modulazione corposa, bella, capisco, anche il Galaxy. Gli altre sono bene, ma non come queste, capito? Non come queste. Questo cacco c'ha volimini in macchina. Ehi, ma che cacco se muoio nel non te lo sentire, ma manco quando io ci faccio una radio, capito? Tanto per fare quel chiacchio, sempre oggi me ne esco in macchina, mi faccio una motovacca in macchina, mai vado a Plattamona, mai vado a Alghero, avevo buccio la radio in altro genere e via, così al portatile. Ma il portatile adesso lo faccio diventare stazione base. Perché me lo uso col microfonino, adesso non è più portatile. Ehi, vabbè, sempre portatile già. Poca potenza, capito, sempre portatile. Mentre quello invece c'ha watt, quindi ti ascoltano molto molto meglio, facciamo una bellissima modulazione. E tu, io, se avessi avuto possibilità di uscire in macchina col baracchino, avevo avuto un 4.30 o un 4.40, so farsi dire, non sapessi, ma io vergogna. Ma se ne vanno a 12 volte, sacca? Sì. A pagare. Quelle sono là. Ma sai che ce l'aveva così? Aveva così. Non anche solo. Quello di Usino, Pastore Serafino. Ma 4.40, 4.30, 140, 180, quelli vanno tutti a 12 volte, mica sono 2.20. Infatti, sono tutti a 12, adesso che ci sto pensando. K. Vanno bene in macchina, ma quelli hanno bisogno forse di una batteria più potente, dai. Sì, le batterie nostre già vanno bene. A voglia, c'ho 80 amperi in macchina. Già va bene, microfono normale e via. Cos'è lui? Ma tu sei al piombo. Ma sono al piombo. E allora? Io ce la batteria allo yogurt. No, tu sei al piombo ancora, cracco. Con la tua macchina, con la lì, c'ha la batteria normale al piombo, hai capito? Ah, sì, infatti, no, ma va bene. Va bene. No, ma non ha che buon nudda, ma cosa me la futti, va bene, cosa... Bah, fai due chiacchiere a casa, la di macchina non la che puni mai più, c'è un bellissimo impianto, io ho una macchina, veniamo tutto, tutto. Sto dicendo, poco facevo il micchichi troppo alto, così va bene anche la tello. Sì, va benissimo, sempre il 43, no? Però l'ho toccato, dove c'è pulendo, mi sono leccato un po' la pulizia dei pomellini, delle cazzate. Con Matteo Dè poi ci ha fatto un brulano col base, quello della Enoiti, e ci ha rotto il vetrino del cambio canale, vaffanculo, ma male Gianni già. Ma non ti preoccupare, qualcosa già ce l'ho di quella radio proprio, perché ne ha due o tre di quelle, capito, una ce l'ha demolita, quindi adesso non ci sono problemi, manco male, se no è un casino, però è originale, capito, è tutto originale quella radio, e sicuramente l'ho toccato per quello che stava per trappare, vero Gianni, così è strappando stava. E intanto diamo un po' a questa radio, maledetta zia. Ce l'avevo a due, il MTG come il 440, invece questo l'avevo a uno perché spinge un po' di più. Registrato. Oh Lu, perché come le fanno adesso le batterie diverse? Se mette una GM va molto meglio, capito? Come questa che ho io dei pannelli solari. Scarica lenta e ti permette di usare appunto una radio del genere, capito? Già. Come quelle delle macchine start and stop, quelle non sono, capito, sono batterie AGM. K, non le conoscevo. Avanti break. Ma non c'era bisogno, bastava provarlo qua, non c'erano problemi, ti avremmo dato anche noi un parere. Dillo via, avanti ragazzi. Mi Gianni Capridue ne ha tante di qua, chiedi a lui, te li compri. E tanto ce ne vogliono due, uno di recensione e uno di trasmissione, tutto lì. Anche io prima facevo così, cambiavo i fronti perché c'avevo all'inizio un portatile tre canali della Lafayette, tre canali, un watt e mezzo, così ho iniziato io. E era tutto bello in ferro, bello massiccio, con l'antenna lunga. E ne aprivo il cofanetto di dietro e praticamente praticamente ricambiavo i canali io, non c'avevo i quarzi e riscambiavo i canali, dove c'era gente restava. Una candela d'Eva. Ma che baracchino è questo? Quello lì. Con due volte e mezzo solo esci. Aiutati. Guarda Riccardo, che strano, perché c'ero io il 294, ce l'avevo, poi ho cambiato con l'Inuit, con me ne ha dato un altro Gianni, riusciva con 5 watt, quasi 6 watt, quindi si può tirare con la radio. Sì, c'è un trimmerino, è facilissimo, si vede anche. C'è un trimmerino in ferro, col cacciavettino induttivo, e sollevi la potenza, perché quello che c'ho io che mi ha dato Gianni c'ha 6 watt modulati, 6 watt, capito? E così è troppo basso, è per quello che esci così basso, capito? Cos'è multistandard? Va bene, ok, cos'è Marco? Questo che sta usando Riccardo è multistandard per caso, poi ti dico perché. Ah, boh, a me va domande strane a me. Cioè, perché alcuni apparecchi di questi moderni, praticamente c'hai tutti i paesi d'Europa e a seconda di come te lo mandano dalla fabbrica o dal venditore, è configurato, che ne so, in modo che da 4 watt in FM, però in AM ne da 1, 2, ne da meno, capito? Manco non so che apparecchio è comunque. Riccardo, apparecchio si può dire oppure no? Ma si può trasmettere per l'Italia anche, ci sono, va nel menu e ci sono le varie, i vari paesi. È vero, comunque è vero, proprio per la Germania loro hanno 80 canali, o avevano, ed erano 4 watt AM e 1 in, scusate, 4 watt FM e 1 in AM, 1 che poi 1, 2. Però da dentro sicuramente c'è, no, trimmerino e fatto tutto. Va bene, riprendete, sto mangiando, ciao. Vai Gianni. Però loro hanno sempre, vai Marco, non stare tranquillo. Ho detto loro non sempre più fatti in FM, perché usano l'FM in priorità, Io in AM e in Germania non ho mai sentito, sempre in FM. Loro usano quella come principale, poi la M esce bassa da loro. Questo così era anni fa, adesso non so se abbiano risolto, se abbiano aumentato i watt in AM, non so nulla. Vai Claudio. Lo sentivo Gianni con un fischio, forse c'erano portante sotto, o non parlato in due, non lo so. Ma che menu devi aprire? Cazzo, sono questi che abbiamo noi. Io ho l'Inuit, il Polmar è uguale, il Zodiac è uguale, sono tutti uguali, sono più o meno tutti uguali. E all'interno c'è un trimmerino, proprio in fondo, nell'ultima parte dove c'è l'attacco al PL, un trimmerino solo, da solo. Il ferro, quello lì è della potenza, lo giri e lo porti a 5 watt, non ci vuole niente a fare. Cos'è menù, che menù va già? Non va nulla, va a 4 dati e boh, va a menù va. Sono radio vintage tanti anni fa. Riprendi qua. Sì, l'ho dato, l'ho venduto. Ma stai usando quel microfono che piace a me? Sto usando quel microfono che piace a te. L'ho visto. No, io credevo fosse uno di quegli apparecchi moderni multistandard dove puoi selezionare la banda europea. È carino anche, molto carino. È particolare, c'ha l'orologino al lato, una figata è comunque. Dai, riprendi di qua, con Rix per me. Quello gliel'ho fatto comprare io, non l'ho preso perché va a pochi canali. Hai capito, Riccardino. Già lo so. Sì, ma se tu li attacchi non hai bisogno di toccare nulla, li attacchi un lineare va benissimo, va benissimo. Già lo so, poi Babbo aveva anche aperto il giorno che l'aveva preso per fargli passare un po' di spray per i contatti, lo poteva anche fare quella cosa del trimmerino, ma visto che ce l'ha sempre lì, ogni volta ci passa e lo vede, quindi già glielo dico se poi lo apre e lo fa con la regolazione, che tanto lo sa fare con un cacciavitino, gira. Sì, ma ci vuole il cacciavitino antinduttivo, quello in plastica. Guarda che è l'ultimo trimmerino, poi ce n'è uno solo, lo vedi, è l'ultimo in fondo nella piastra, proprio a fianco al trasformatore di tensione, lì, in quella parte lì. È un trimmerino quadrato in ferro, entra il cacciavite induttivo, le fa ancora in regolazione, perché è abbassato, siccome io il giorno che l'ho visto aperto da casa di Gianni, me l'ha fatto vedere Gianni qual è il coso per la potenza, si può tirare anche fino a 10 watt, capito? Quindi lo puoi tirare, beh, perché così è troppo basso, 2 watt e mezzo è troppo basso. Va bene, ok, dai, riprendete, Gianni, riprendi. E poi c'è un microfono che è bellissimo, quel microfono, mi piace molto. È cromato, tutto cromato. Quello originale di quella radio è così, non è che è un microfono adattato, è così, originale di quella radio è così. Perché ho avuto il Zodiac base celeste così, uguale, precisetico a quello che ho venduto ad un collezionista che tu ben conosci di Sassari, non quello degli punti, quello in alto, quello lì è derivato con quel microfono. Il suo originale è così, nasce così con la radio. Ah, pensavo che fosse un tipo di microfono adattato quello. Ma è amplificato, Riccardi, o normale? Non lo so perché non l'ho mai aperto a vedere se ha una batteria da 9, ma o un tipo di batteria, però penso di no. No, non è amplificato, è una capsula. Già, sono quei microfoni tipo il Tokai, il Pace 123 che spingono un bel perché hanno la capsula condensatore, capito? E quindi spingono un bel, ma non è amplificato, non ha rotellina, batteria, non c'ha niente, è così. È di quelli precompressi, eh? Esatto, ma è il suo originale, nasce così con la radio. Nasce così, capito? Infatti alla fine vale più la radio, il microfono che la radio, perché il microfono è introvabile quel microfono, capite? E a me piaceva quello lì, Riccardo, stava facendo la corte, invece non me la dà. Il senso originale cosa? È la bellezza di quella radio avere il microfono su originale. Capito? Già lo sai quella persona lì quanto è precisa, e l'aveva voluto proprio perché l'ha visto così perfetto in me, a me me l'aveva regalato, non venduto, regalato Pinocchio. K. No, io l'avevo visto su internet e praticamente quello che mi ha tirato più che altro era il microfono, poi ho visto il colore della radio, toccata che bella questa radio, proprio ti attirava il colore, dai. Solo che poi ho visto il canale, adesso provo a dire la Riccardina, a me non mi interessa, ma lui che è collezionista magari mi interessa, a me non interessa perché ha pochi canali. E infatti ce l'ha presa lui, gli ho detto Ricca, guarda così e così, gli ho dato tutto l'indirizzo e via. E ci ha parlato e ce l'ha presa. Sì, il bel canale che trattemmo, quando ne hai 23, poi se ne hai altre, se la gente si sposta, ti sposti anche tu. Ma perché a parlare sul canale 10, hai visto ieri, io stavo usando quella là. È uguale a quella praticamente, cromata così, solo che se è celeste è nera. Quella è celeste, ha lo stesso colore del Tokai 5024, perché la Zodiac fa, il Tokai lo fa la Zodiac, quindi il colore è quello, capito? Va bene, dai, riprendi Claudio Di Muro, se io rimango un attimo in quel ricco, ci sentiamo dopo, ok? Non è a 23 quello, Saturo è adesso. Eia, ti devo dire una cosa, sei Saturo adesso, come mai? Adesso è perfetto, dai, lascialo così che va benissimo. Io li uso tutti a manetta, Mikey King, non li ho mai abbassati. Solo quello della 48 bisogna usarlo un tantino e meno perché ti fa la radio più bella. Però tutti gli altri, ma quello è perché è modificato, capito? Comunque ho notato che questi lineariti così, sì che li dai 100-120 vanno bene, aumentando la potenza saturano di brutto, mentre invece ci sono lineari che anche se li dai 600 watt manco si sente. Io per dire la 48 ce l'ho 1,5 watt, però 1,5 watt quando parli poi sale a 12 watt, capito, di picco. Ma poi se tu li attacchi lineare è una bomba. Macchina ce l'avevo con 747, sì. Parlavo da produttore con Alghero addirittura. Ma perché fate ping pong? Non lo so, Cappa, avanti Riccardo. Eia, non so voi, ma forse sarò l'unico di tutta Sassari che non ha un lineare recente, avevo un linearino piccolo alla ZG, non regolabile, però ogni volta che lo attacco inizia a saturare, ce l'ho qua ma non l'ho più toccato. Ricca, io 747 che è un lineare della CTE, ce l'hanno anche la GBC, costa sulle lombardere la GBC, ma se lo prendi da internet costa meno, quello va molto bene. Ehi, ho già visto il tuo che è bello grosso, io mi devo provare uguale, però se sto arrivando bene non me ne faccio niente, alla fine mi interessava uno di quei lineari tipo da quelli piccoli a 30 watt, tipo se volevo andare in campeggio che me lo attacco al camper e potevo fare forse in propagazione in estate, ma di avere lineari grossi non mi interessa. Vediamo un po' se vuole fare qualcuno. Oh, yeah. Allora, quell'apparecchio che ha Riccardo ha un clone, è della Regency, roba americana, Regency ha un nome particolare, aspetta, ma ho perso il nome, Regency Formula 23, copiato, identico, identico. Riccardo, a te sta dicendo. Vabbè, che se volevi cercare anche la coppia, non so se te lo ricordi che ne avevo parlato un bel quando l'avevo comprato, lo Stalker XI, che era quello che avevo comprato a stazione base, che mi sembra che l'avevano fatto la coppia lo stesso, già ne hanno coppiato un bel. Sì, uguale, proprio identico, però avrà i watt che deve avere, quindi non è un problema lì. Ok, volevo dire questo, stavo controllando bene gli apparecchi vintage, belli però, alcuni sono molto molto belli e molto molto introvabili. Vai Gianni. Marco, scusa, lo chiedo, il nome com'era? Allora, aspetta, Regency Formula 23, Regency con la Y finale, Regency come è scritto, Formula 23. E sempre 23 canali, presumo americano, per il mercato americano, fatto in Giappone comunque, prodotto in Giappone. Identico. Sì, sì, proprio lui. Per il mercato tedesco, vabbè, gli hanno limitato i watt al limite. Meglio. Vabbè, dai, riprendete, quell'X per me, tanto sto facendo roba, ciao. Ciao Marco, ciao. Avanti, chiodo arrugginito, riprendi tu. E quello potrebbe essere il PTT che è tanta polvere, basta mettere un po' di spray per contatti nel PTT e si riprende. O se no, non lo so, quello lì è un bel microfono. KK. E tu sei tipo gli americani, no? Che ti piacciono le cose grandi. Quando c'avevi la moto te la truccavi. Adesso che c'è la passione per gli apparecchi, ti piacciono le cose grosse. KK. Sì, va bene, dai, se ti piace stare in mezzo a quel casino del 45, sì che si può modulare, a me piace lo stesso, però quando ci sono troppe sovramodulazioni, troppe cose non mi piace più, troppa confusione, troppi casini. Poi a volte riesco a spostarmi con gli amici in un altro canale, magari per il sul 43, capito? Magari ti senti bene, però se c'è troppa gente è un macello. Dai, riprende Riccardo. Già lo so che poi te lo ricordi quando c'è, vabbè che tu ne avrai più esperienza di me, o tutte le volte che c'erano quelle sovramodulazioni anche su lì, cioè non si capiva nulla in propagazione. Niente, poi volevo dire a Clea, comunque te l'ho detto te l'ho consigliato il rosmetro, quello che può funzionare per quel lineare. Io guarda, c'ho la KP1000 che fa da rosmetro, accordatore, e wattmetro, fa tutto. Quindi, va benissimo la KP1000. Io ce l'ho e va molto bene. Sia come accordatore sia come... ma io non c'ho bisogno di accordare perché esco con i watt normali. Ma anche quando esco con 100 watt massimo mi dà 2 di stazionari, 1 e 1, 1 e 2. Beh, glielo credo. Qua se lo vuoi vedere basta che cerchi ZGHP1000 e lo vedi, sembra un televisore, è bello grande, gli strumenti sono grandi, si vedono bene. Bianco per me. Non è commerciale come accordatore, come rosmetro, però va bene, io l'ho sempre usato, a me va bene, non mi ha mai dato problemi. questo qua ti sto dicendo è un rosmetro commerciale, però va bene. Arriva fino a 1000 watt, quindi fa alla scala 10, 100 e 1000, in più c'è il rosmetro a connettore, quindi più di così c'è tutto. Poi vabbè, andiamo con una marca superiore magari. Dai va, già è poco veloce, bello. Siamo prima viaggia, boh. Ahi. E tanto vai a vedertelo su internet, così ti fai una cultura, cioè è anche con le luci, si illumina, capito? È bello. Io adesso le luci le dovrò cambiare, metterò quelle color ghiaccio, in modo che si vede proprio perfettamente. Queste qui sono un po' gialline, dai, rimangono sul giallino. E una mi si sta anche mezzo fulminando. Ma già gliele cambiamo, non c'è problema per quello, le mettiamo color ghiaccio oppure li metto le luci blu direttamente, anche lì, così è tutto quanto blu qua. Fai così, ne avete due. Va bene, Marco, c'è avanti. Marco, riprendi. Daiwa, Daiwa CN 901. Quello è il top, il top. Piaceva troppo anche a me, però costa un po'. Comunque già piano piano mi sta, con lo smetrino che ho io, la taratura del fondo scala, no, il trimmer, il potenziometro del fondo scala sta cominciando a sbarellare, sarò costretto a cambiarlo. Certo, quello costa un po', però non devi tarare fondo scala, c'hai direttamente i watt, le stazionarie, la potenza riflessa, poi c'ha, ti indica la VG, il PEP, tutto, c'ha delle regolazioni dietro per fare tutti i tipi di misurazione desiderati. Comunque li guardi tutti, dai va, CN901, è solo rosmetro e wattmetro, non è accordatore come la KP1000 anche, però credo che sia il top, fa da tipo da 1 a 200 MHz, una cosa del genere. Vai Chiodo, sì Claudio, sì. Sì, allora ci sono due modelli, prima si chiamava comunque l'801, adesso hanno fatto il 901 che ha i tasti per selezionare la potenza diversi, no? E ci sono due modelli, uno è il modello normale, HP, e l'altro mi pare si chiami HP3, in pratica uno tiene 2 kW di picco, tipo banda laterale, e l'altro tiene 3 kW picco, a me piace il modello da 2 kW, per una questione di fondo scala, di watt, cioè vabbè, una cosa mia, però quello è considerato abbastanza, poi è enorme, c'è uno strumento enorme, non devi avvicinarti, metterti gli occhiali o illuminare, a parte che il retro illuminato è spettacolare quello è, dovrebbe essere abbastanza preciso, cioè quello è il top. Io per un po' per tirchieria, un po' per migrania non l'ho voluto prendere perché c'è un rosmetro ridicolo. Che altro dire? Io mi sarei dovuto accontentare tipo del Diamond SX200, che lo stesso fa da tipo da 1 a 200 MHz, solo che lì sempre strumento più piccolo, no? Più classico, devi regolare il fondo scala, l'altro invece è spettacolare, watt e stazionari istantaneamente, capito? Veramente, ma veramente bello. Vai Gianni. Io guarda, a me non piacciono quelli ad aghi incrociati, dico la verità, mi piacciono più quelli normali, si vede meglio, gli aghi incrociati sono troppo fini e mi va meglio l'altro, non mi piacciono quelli ad aghi incrociati, insomma, è il mio gusto quello lì, poi, comunque HP1000 io ce l'ho da tanto, non so quanto costi, però so che su internet l'ho visto, mi sembra se con la mano 40 euro lo stavano dando. Allora io ho due strumenti della ZG, ho l'HP1000 e il 102, che sono uno lo uso per la macchina, per regolare la macchina che rimane più piccolo, c'è un rosmetro e watt, metro accordatore non ne ha. L'altro è l'HP1000. Beh, ho misurato sia con uno che con l'altro, mi danno le stesse stazionarie, quindi penso penso che sia lo giusto. Poi non lo so, ma c'è gente che dice che è commerciale come apparecchio, che ce ne sono di migliori, in effetti questo è vero, però a me non ha mai dato nessun problema. E io te lo consiglio, se poi vabbè, con grosse potenze, la verità non l'ho mai provato, massimo gli ho dato 100 watt, però questo c'ha la scala 10, 100 e 1000, capito? Sì, stavo guardando i prezzi già. Allora, FLQ elettronica 155 euro l'HP1000, IL ovviamente 10 euro in più. Se guardi su Amazon, che poi è IL elettronica, che sta sbarellando 189 euro più la spedizione, nuovo, dico nuovo, perché io dico, cioè, Claudio, io dico di comprare nuovo. Se vuoi uno strumento preciso, che sai che è nuovo di fabbrica, che non è toccato, che non è calato a terra, io direi pigliarlo nuovo, di fare un piccolo sacrificio ma prenderlo nuovo, soprattutto gli strumenti di misura, capito? Sì, la HP1000 ha di bello che ha l'accordatore, che vale naturalmente per la 27, no? L'altro, diciamo, è più amatoriale, quel Daiwa, è più amatoriale, ha solo la strumenti di misura, watt e stazionaria, senza la sezione accordante. Sono belli tutti e due, belli tutti e due. Ma ti volevo fare una domanda, ma tu un giorno avevi detto che avevi il PM999, eri tu? Sì, allora io nell'arco di 30 anni me ne sono fumati 3 di TM999 e tutte le volte si bruciava la sezione accordante, cioè il rosmetro continuava a funzionare, ma se inserivo la sezione accordante stazionaria a fondo scala, perché tiene troppi pochi watt. Ma ti dirò di più, che io non usavo nemmeno 100 watt, a me si è bruciato per due volte, anche con potenze nell'ordine di 20-30 watt, continui, non 100, 30 watt, è fatta troppo in modo economico la sezione accordante, ed è sempre quella che parte. Invece l'HP1000 dentro c'ha quei condensatori ad aria, quelli con le lamelle, bellissimi, fatti bene, capito? Quello tiene molti a molti più watt. Dai, riprendi Gianni, che vado a bere, che ho la gola, sto asciuttandomi, come si dice. Gianni, c'è Faraddu. No, sono al telefono. Capito Claudio. Se tu alla fine però non necessiti di accordatore per la 27, cioè se bene o male dall'1 all'80 o dall'1 al 45 stazionaria non ne hai, io propenderei, cioè sceglierei il Daiwa per la massima precisione di lettura. E poi è uno strumento incredibilmente grande, c'è un display spettacolare, anche da lontano lo vedi. Vediamo se riprende Gianni oppure se è al telefono ancora. Ecco. Avanti Brecco. Sì, ciao Marco, buonasera. Massimiliano da questo. Ciao Massimiliano, ben entrato, ben sentito. In compagnia di Claudio Chiodoro Ginito da Muros, Gianni al telefono. Gianni Opiruma al telefono. Vai Claudio. Ciao Claudio, buonasera, là. Ben sentito. Mi servirebbe il tuo numero, che ti volevo mandare un po' di foto su WhatsApp. È positivo, sì, il tuo, però non so chi ce l'abbia qua a Sassari, capito? Sì, che lo uso Facebook. Tu sei Claudio, però il cognome è quello là sempre, no? Sto guardando, ma non ti trovo. Cerca a me tu, capito? Che a me chiami tu. Mandami l'amicizia, che poi su Messenger ti devo mandare delle foto, ti devo chiedere anche cosa, così mi mando il numero, là. Positivo, là, era giusto per questo, là. Riprendi Marco, fa girare tu, là. Ehi, sento un bel casino sotto di propagazione, QRM, non è proprio tranquilla la ricezione. Ehi, le stavo dicendo del Daiwa, no, ma tu mi pare che avevi l'801. E quello è molto molto bello, cioè se uno vuole il massimo della precisione io opterei per quello. E poi è comodo perché, che ne so, cambi canale dall'1 al 40, devi fare sempre taratura del fondo scala con il DZG, no? Cioè con quelli a... vabbè, già capito. Che cambi banda, vai a vedere gli estremi della banda sopra e sotto, devi fare quando scala, quello invece è più immediato, il Daiwa, premi e ti dà già tutta la lettura, watt, potenza riflessa e potenza diretta, è un bijou. Io non ho preso perché per quanto utile non volevo spendere una cifra del genere ancora, dai. Vai Massimiliano. Sì, io ho l'801 HP3, quello da 3 kW. Poi non c'è niente a che vedere con lo ZG. Prova a mettergli un po' di watt in più con lo ZG a vedere in disisci. No, io come ZG qualcosa ce l'ho, però ho voluto spendere un pochino di più e prendere questo dagli incrociati. Le letture te le fa perfette, un'altra cosa, tutto un altro buba. Poi se non c'è il sensibile non te ne fai niente dell'accordatore, capito? Tutto qua. Ok, dai, riprendi Claudio, non ti ho trovato comunque su Facebook, cercami tu, Massimiliano Solo, Bulldozer, già mi trovi, ci sono io in foto, e poi se c'hai Messenger ti mando qualcosina lì, dai, ok? Ti saluto a tutti, una buona serata, ciao, chiudo. Un attimo, eccomi qua. Sono andato a chiudere le finestre, no, perché ero in camicia io, no, in camicia sottile, come in estate. E sentivo questa corrente fredda, fresca, no? Sì, fredda. Ho detto, ma come mai? Qua la finestra è chiusa, invece mamma va aperto da un estremo all'altro e la casa va aperto le finestre in fondo, no? E quindi qua c'è una corrente e mi sta prendendo anche la gola, mi. Come ogni volta che prendo fresco, sempre lì mi becca, sempre alla gola. Bene. Gianni, sei rientrato dal telefono interrogativo? Nuda, Gianni impegnato, dai, va bene. Eia. Sì, TM999, utile, in macchina era utile, soprattutto con antenne critiche o Claudio. Con antenne che avevano banda troppo stretta, no? Che tenevano a mano appena 40 canali. Però si può usare sempre con pochi watt, ripeto, io già con 20-30 continui, ne ho rovinati due, uno 30 anni fa e due, uno più o meno 2010 e dintorni, l'altro anche dopo l'avevo comprato, 2015, niente, bruciato anche quello, la sezione accordante. Pazienza, adesso che lo so, però non ne piglio più io ZG quantomeno, per quanto fosse anche abbastanza preciso, relativamente preciso, no? Confrontato con l'MFG, no? Vabbè, vai. Sono tornato. E Erika? Credo ha chiuso, ha fatto quel tipo canci, mi pare. Massimiliano, c'è ancora? No, ha chiuso, dai. Oddio, no, magari quelli più costosi sono un po' più curati, tipo la HP1000, oppure ce n'è uno bello mio anche dagli incrociati, e lo stesso fa tutta l'HF, e non mi ricordo la sigla. Però io direttamente andrei su marche di roba amatoriale, capito? Dai, va, tutta roba del genere. E qua sarebbe sprecato, cioè... Sì, bello, ero sul punto anche di prenderlo, perché cioè, inutile avere tanti piccoli di marche misconosciute, Proxel, Oxin, tutta quella roba lì, e poi alla fine uno segna 1,5, uno segna 1,2, uno 1,7, cioè non ha senso, meglio averne uno solo ma buono. Ah, riprendi di casa. Ok, saluto comunque a Bulldozer, se ancora l'ascolto, e mi sono allontanato per un po'. Ricca, ma anche tu hai quadre, mi sento propagazione sotto, un bel di roba sento. Sì, positivo, anch'io sento voci, strano, c'è un poco di propagazione, sì. Chiodo Ruginito, riprendi? Allora, tu sei Santiago 9, giusto, Santiago 9. Sì. Eiacla, comunque stavo sentendo che stavate parlando dell'HP1000, io ce l'ho, però ce l'ho fermo, non lo uso perché non l'ho mai provato, l'ho usato qualche volta e poi l'ho rimesso, mi piace usare più il TM1000. Il TM1000, Erika, ma il TM1000 era quello grande... che poi l'HP1000 ha cambiato nome, era il vecchio HP1000, forse vuol dire il piccolino, il TM999. No, il TM999 non ce l'ho mai avuto, aspetta che lo riguardo, che ce l'ho qua, che è quello un pochino più grosso dell'HP1000. Sì, perché ricordo che 30 anni fa, 30, 20, l'HP1000 si chiamava TM1000, e poi l'hanno chiamato HP1000, dai, un po', l'hanno un po', gli hanno rivisitato un po' l'estetica leggermente, sai, con le manopoline gli hanno cambiato, non è che abbiano fatto molto, comunque già è bello anche, meglio che niente è meglio quello allora. Vai Ricca, vediamo se hai trovato il nome. Ma sì, no, è TM1000, però mi sembra meglio di usare quello che l'HP1000 è un po' più da regolare secondo il mio aspetto. Invece il TM1000 no, c'è proprio poca roba a regolare. Ti ispira di più il vecchio, d'altronde l'HP1000 della vecchia guardia, diciamo, dai. Anche Pomponio ce l'aveva. Solo che il suo era troppo, era tutto andato, non riusciva a regolare il fondo scala, schizzava l'ago su e giù, non, era un po' difettoso quello. Bene, vediamo se è rientrato doppio room. Niente, questa è telefonata amorosa, sicuramente. Ti prendi Claudio. Oh, scusate, sento un rumoraccio, mamma mia. No, ti ascolto bene Claudio, però sotto, proprio in questo canale c'è il maggiore Abuluttu, negli altri canali ce n'è già di meno. Il 10 piace molto agli spagnoli e non so chi altro. No, aspetta, cosa ti ho chiesto? No, ho chiesto nulla, vabbè. Non mi ricordo francamente. Ok. Più di tanto non vanno questi apparecchi, dai, bisogna accontentarsi. Gianni. Oh Marco, se lo puoi dire, che cosa stai usando? Sì, io sto usando un President McKinley, AMFM SSB. Ah ok, mi sembra di averlo già sentito questo President McKinley, perché mi ricordo molto il President Jackson, però è tutt'altra cosa. Sì, questa è della nuova guardia, diciamo, credo sia l'ultimo uscito. È molto diverso, tutto display a LED, può non piacere, pochissime manopole, devi fare tutto da menu contro menu, infatti molte funzioni manco me le ricordo ancora. E ha l'altoparlante frontale, questo è fatto apposta per la barra mobile, l'altoparlante frontale, quindi c'è il suono diretto che viene verso l'operatore, no? Che usa la radio. È un baracchinetto volgare comunque, niente di che. La modulazione, vabbè, credo che sia abbastanza limpida, cosa per me essenziale. Chiedo sempre io della modulazione, non chiedo mai il segnale, sempre che sia chiara la modulazione, perché se manca quella, addio. No, già lo so, perché Bobo mi dice sempre che posso avere o un segnale di 2 e una radio di 5, che è buono, anche se non ho un segnale altissimo, oppure avere un Santiago di 9 e 10 e una radio di 1. Ciao Bombolo, registrato. E Ricca, poi se si può avere anche un buon segnale, una buona radio, è di lusso. Se si possono avere tutte e due le cose, è di lusso. Vai Antonio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Riccardo, buonasera a tutti in generale. A tutti da questa parte. Ciao Antonio, tutto pimpante, sì, vabbè, è inutile dirti che qua sei sempre incollato a fondo scala, ma siamo troppo vicini, non fa testo. Ero curioso di sentire quando entra Claudio da Porto Torres, zona Faro, volevo vedere quanto eri migliorato adesso rispetto a prima. Ti ricordi, prima ti avrei detto arrivavi quasi zero, praticamente nel QRM, adesso avrei sicuramente migliorato, poi le prove naturalmente le fai da liscio, no, se no non, cioè con lineare non, che prova è, ok, vai Riccardo. Buonasera Antonio, ben ascoltato, niente, scusa Marco se te lo posso chiedere, che sono un po' ignorante, ma tu di display lo puoi scegliere solo di un colore oppure te lo puoi cambiare dal menu, e che cosa ti sei messo come colore? Allora io l'ho messo celeste perché gira gira è il più luminoso, allora c'è, adesso per non mettere mano al menu, c'è comunque rosso, blu, celeste, verde, ambra, giallo, verde, aspetta cosa c'era, quello che si chiama purple, che sarebbe una specie di rosa violetto, che prende un bel male gli occhi, però quello disturba la vista. È bianco, però il bianco è brutto, il bianco è veramente brutto, risulta come un grigiastro oppure un bianco spento. Di tutti i colori è il più brutto, quindi l'ho messo celeste ed è un bijou. Può regolare anche il contrasto del display e la luminosità, quindi se sei, che ne so, di notte in stanza che ti dà fastidio la luminosità, tipo luci spente, lo puoi mettere al minimo di luminosità, capito? Ho capito, no, già è bellino. Mi pare che ce l'ho anche io sulla pagliette zio, se mi pare, quella è quel coso per cambiare i colori, ma io l'ho sempre blu, non me lo ricordo adesso, ma mi pare che l'ho blu io. No Anto, negativo, no, quello è fisso, è come il Polmar ZX40, è solo blu. Poi vabbè Rica, perché sono comodi questi apparatini, perché hanno tutto di serie, c'ha l'eco, a chi piace l'eco, regolabile ovviamente. C'hai l'autoascolto, con un tastino puoi inserire l'autoascolto e sapere se stai uscendo, a che livello è regolato l'eco, un rosmetro incorporato, un sacco di cose che io vabbè non uso mai. Puoi usare la funzione span, che anziché modalità canali è come che mettessi la modalità VR con la banda laterale, capito? Ti puoi spostare, mi pare, di, non mi ricordo se di 100 Hz alla volta o di 10 Hz alla volta, però sempre vale in banda laterale, in AM non c'è bisogno. Ok, vai Riccardo. Ho capito, nonno, già è bellino. Avanti di nuovo a te, Antonio. Gaffa, ma gaffa parecchio è, adesso io non me lo ricordo tanto bene, la verità. Ah, Riccardo, ma l'amicizia te eri tu, sì. Sì, sono io, non ti avevo neanche riconosciuto. Bello di è rientrato qualcuno, Gianni sei tu? Ernia. Eia, va bene, riprendete, dai, vai tu Gianni. Cappa, dai, ciao Bombo, l'ho ben sentito, non so se sia rientrata altra gente, dai, sono rientrato, era al telefono. Avanti Bombolino, facci sognare. Cosa devo fare, cazzo? Eia. Ok, no Riccardo, già sono io, sono col troppo dopo, non ti preoccupare. Ah va sì che andava bene, Antonio. Ah, all'imbocca va. Adesso va bene, Antonio. Come ti arriva Antonio, Marco? Fondo scala, arrivi. Gianni, a me hai detto, dimmi. Sto chiedendo come gli arrivi tu. A me? Eia, come ti arriva Antonio? Già, qua 9 più 30 LED, fondo scala, cioè non ha molto senso lo smitter a LED, beh, così è. Ma anche tu mi sei 9.30 incollato, cioè tutti sei, forse no, Riccardo no, un po' meno Riccardo. Vabbè Riccardo lo sappiamo. Il distante Riccardo. È il più piccolino. Poi se attacco lineare Riccardo vi schiaccia tutti, vi si mette tutti in tasca, io sono convinto. Chi? Guarda, ho attacco lineare in oca, vedi. Ho già, stavo notando che su internet è sempre più difficile trovare, se non quasi impossibile, il 747, ma è ancora in catalogo o l'hanno tolto, ce l'ha solo GBC gira, so perché a parità di oggetto, che poi dentro si scopre che è uguale, c'è sempre il famoso RM Italy KL203, dovrebbe costare intorno ai 55 più la spedizione, 9 euro. Boh, non so. E mi è durato la lampada a Santo Stefano, non sarà lampi o roba del genere che me l'ha ribruciato, ma l'ho messo in stazione, quello lì, praticamente avevo messo 747 in macchina, ma è durato, cosa ti posso dire, manco una ghita, manco una settimana ce l'avevo, bruciata, ha fatto un temporale, adesso non so se sia quello, sia dovuto a quello, ma era tutto spento, quindi non penso, sono andato a riaccenderlo, non accendeva più. Ai te Claudio, fatela bravi, vai Claudio. Fatela bravi a questi lineari che poi succede il patatraffico lineari. No, ma lo usa solo sul canale 45, perché da Ruginito lo usa lì e basta. Ti sto dicendo niente a Chio Ruginito, io ci vuole vedere con voi, non con Chio Ruginito. Lui è lontano da Sassari, lo può fare, ma detto Sassari non fa. Non fa, non fa. Io un giorno ho provato, cazzo, solamente di mezzo giassari, quindi fate la bravi.